Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Torneremo sul vertice di ieri, quello di Milano tra Angela Merkel, Matteo Renzi e François Hollande, ma non per dare ulteriori commenti, oggi i giornali giustamente ne erano ricchi, ma soprattutto perché oggi dalla Germania, la coincidenza è abbastanza singolare, dalla Germania arrivano nuove notizie di una frenata dell'economia. Il principale istituto di statistica, l'IFO, ha tagliato le stime sia sul 2014, l'economia tedesca crescerà non più dell'1,8 ma dell'1,2, e voglio dire è un 30% in meno, e per il 2015, dove praticamente crescerà in maniera analoga, 1,3%. Ora, non sfugge a nessuno che chiaramente l'Italia quest'anno fa meno 0,3, meno 0,4, l'anno prossimo se va bene più 0,5, però per quella che è considerata, e lo è, la locomotiva europea, l'1,2 quest'anno e l'1,3 l'anno prossimo sono veramente poca cosa, e soprattutto sono tutti stati abbassati, non rivisti al rialzo, tant'è che oggi Angela Merkel dice, e a mio avviso è la prima volta che vedo la cancelliera tedesca così netta sul tema: non mi meraviglio del taglio delle stime sul PIL tedesco, visto che la congiuntura economica si è offuscata. E poi aggiunge, questa secondo me è la cosa più importante, ci prepariamo a capire come poter fare più investimenti. E quindi dice la sburocratizzazione, l'agenda digitale, le sfide energetiche per l'economia tedesca. È la prima volta, adesso forse mi sbaglierò, che il cancelliere tedesco dice in maniera così netta che la Germania deve fare più investimenti. È un tema delicatissimo, perché quello che chiedono gli altri paesi europei, oltre che il Fondo Monetario, l'OCSE, la Commissione Europea, e cioè, visto che la Germania è in pareggio di bilancio, ha un'economia che tira, la disoccupazione ai minimi, facceli, non dia soldi agli italiani e agli spagnoli, ma faccia gli investimenti in casa. Perché? Perché è chiaro che se in una famiglia qualcuno inizia a spendere, c'è un vantaggio indiretto anche per gli altri paesi, e comunque si riduce questo squilibrio tra i paesi che devono solo tagliare e i paesi che hanno i soldi ma non spendono. Ecco perché forse l'occasione del vertice di ieri è stata un'occasione più importante del semplice tema del mercato del lavoro e così delle varie dichiarazioni. Forse si è di fronte a una svolta, anche perché appunto la Germania arrivano dati non positivi. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Prima di tutto però ci occuperemo della vicenda, ahimè, della siderurgia italiana, che oggi ha un nuovo, come vi raccontava il nostro GR24, un nuovo tema, o meglio un nuovo sviluppo non bello nella vicenda Terni, e quindi le acciaierie di Terni, perché si è conclusa senza alcun accordo la trattativa sul piano industriale dell'ST tra aziende e sindacati, con il governo mediava e c'erano anche le istituzioni umbre. E cosa è successo? Che praticamente l'azienda ha annunciato la mobilità per 550 dipendenti dopo la rottura della trattativa. Il ministro Guidi dice che l'azienda e i sindacati erano troppo rigidi, grazie al governo il piano industriale è radicalmente cambiato, però insomma qui si va verso anche lo sciopero per l'intera giornata di oggi, con presidio e blocco delle portinerie, e tant'è che gli operai hanno invaso i binari della stazione e hanno fermato due treni. Poi ci occuperemo dell'annuale classifica dei brand, ossia dei marchi, che non vuol dire i gruppi più grossi, ma i marchi a maggior valore aggiunto a livello mondiale, e come sempre anche i mercati finanziari. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, e adesso rapidamente le notizie in breve. E arriveremo anche tra un attimo alle borse. Prima però fatemi dare qualche notizia di carattere internazionale. Allora, per quello che riguarda, non c'è solo la Germania oggi, c'è di nuovo il Fondo Monetario Internazionale che sottolinea, per voce del suo direttore generale Christine Lagarde, c'è un serio rischio che l'area euro scivoli in recessione. Ci sono il 35-40% di chance. Ancora, 35-40% di chance non è poco. La Lagarde dice che bisogna fare le riforme strutturali, non parlarne solo. Va bene l'attività della Banca Centrale Europea, faccia di più però se i prezzi continueranno a essere bassi. E poi continua il numero uno del Fondo Monetario Internazionale. Sulla Banca Centrale Europea ha un'opinione molto netta, dice: se le prospettive non dovessero migliorare per l'area euro e l'inflazione continuerà a essere vista al ribasso e arrivare verso la deflazione, beh, a questo punto la Banca Centrale Europea dovrebbe fare di più, incluso l'acquisto di titoli di Stato. Volete il gufo per Lagarde? Ma insomma, non è molto gentile, però va bene, anche a me lascia sempre un po' perplesso quando si dice c'è un rischio che l'area euro scivoli in recessione, ci sono il 35-40%, perché insomma si crea del pessimismo senza giustificarlo. Vabbè, dai, diamo il gufo alla Lagarde, anche se una donna, diamo il gufo. Offenderà il direttore del Fondo Monetario Internazionale. Detto questo, oggi la Banca Centrale Europea ricorda che se si rendesse ancora necessario far fronte ai rischi connessi a un periodo di bassa inflazione, la Banca Centrale è pronta a ulteriori strumenti non convenzionali. Non so, a questo punto manca solo l'atomica, però insomma è chiaro che l'unico strumento non convenzionale ancora non messo in piedi dalla Banca Centrale Europea è l'acquisto di titoli di Stato e quindi quantitative easing come l'ha fatto l'America, cioè lo stampaggio di moneta. Su questo la Germania è contrarissima al fatto che la BCE si metta in pancia debito dei paesi dell'area euro. Faccio notare che altre banche centrali invece l'hanno fatto. C'è un ascoltatore sempre molto gentile, Marco da Vicenza, che mi scrive: Mona, ok, quella la capisco, anche se i crucchi comprano di più, comprano cinese, non ci vuole un genio. Beh, allora adesso non possiamo dire ai tedeschi anche che cosa comprare. Quello che si può chiedere alla Germania, questo sì, è di spendere, fare investimenti infrastrutturali. Non è vero quello che dice lei, secondo me, perché ne parlavamo con Alessandro Melli, corrispondente da Francoforte per il Sole 24 Ore. Ci sono tanti investimenti infrastrutturali di carattere ferroviario e autostradale che la Germania può fare, e non è detto che le forniture siano tutte cinesi, possono essere anche italiane. Ricordavamo ieri col presidente di Federmeccanica che la Germania è il principale mercato di sbocco per la nostra industria meccanica, che è la principale industria quanto apporto al PIL. Quindi non è detto, la ringrazio per l'appellativo, ma resto della mia idea. Altre notizie, questa volta non di carattere internazionale. Tra l'altro, sul fronte dell'export e della Germania, vale la pena ricordare che oggi il dato sull'export tedesco vede un calo dell'1% rispetto a un anno prima, e anche questo dovuto al fatto che i paesi, Italia, Francia, ma non solo, acquistano di meno. Poi è rallentata l'attività economica fuori dall'Europa, ma insomma i segnali che stanno arrivando alla Germania sono chiarissimi. Ordinativi industriali in brusco calo 3 giorni fa, produzione in brusco calo 2 giorni fa, PIL rivisto a ribasso oggi, sia sul 2014 che sul 2015, export in calo rispetto a un anno fa. Volete il commento sulla leggenda di SMS, il commento su Renzi, Merkel e Hollande lo faremo dopo. Nella seconda ora del programma tornerà a trovarci un uccellaccio, che è un vecchio conoscitore di questo programma. Però Renzi oggi nel frattempo ha detto, dopo quello che è successo con il voto al Senato, il governo ha fatto un grosso passo in avanti, bene i numeri, c'è un margine forte, 165 sì, lo ricordo, e 111 no, con due astenuti, siamo stanchi delle sceneggiate di alcuni senatori, così come sono, ne sono stanchi i cittadini e si domandano che senso abbiano. Immagino che il riferimento fosse ai 5 Stelle. Valuto il voto di questa valuto il voto di questa notte come segno che cresce il sostegno al governo ed è deciso, e sono deciso ad andare avanti e annuncerò che farò di tutto perché il civattiano Tocci non si dimette. Beh, queste sono dinamiche interne al PD. E poi ha aggiunto Renzi, adesso siamo decisi e determinati su semplificazione fisco, passo dopo passo Italia riparte. Allora non sono io che sto facendo la crasi, è che Renzi anche stavolta ha parlato con un Twitter, quindi diciamo la frase è obbligatoriamente sintetica. Nel frattempo però la UIL dice che sostiene che con uno studio che se si rivedessero gli ammortizzatori sociali, soprattutto la cassa integrazione in deroga, complessivamente la cassa integrazione, mobilità, disoccupazione l'anno scorso hanno pesato per 23,8 miliardi e la disoccupazione schizzerebbe in alto e andrebbe praticamente crescerebbe del 5 del 2012 al 138 del 2008 è la spesa in aumento per tutti gli ammortizzatori sociali. Nel frattempo c'è una buona notizia che riguarda i consumi. Il peggio dovrebbe essere passato. Io qua tiro fuori il gufo un'altra volta, ma come scaramantico. Lo rivela la ricerca del Centro Studi Intesa San Paolo, oggi presentata qui al Sole 24 Ore, l'ottavo Consumer Retail Summit. E la previsione l'ha fatta al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali, Gregorio De Felice, che è capo economista proprio di Intesa San Paolo. Quello che manca in questa fase del ciclo economico italiano sono soprattutto gli investimenti. Per i consumi, anche se non c'è ancora una ripresa, siamo su una crescita zero, considerando che abbiamo avuto dati fortemente negativi nel 2012 e nel 2013, possiamo forse dire che il peggio è passato. Ci sono alcuni indicatori positivi, in particolare la fiducia delle famiglie italiane è in miglioramento, la disoccupazione non sta scendendo ma non sta neanche salendo e penso che l'effetto degli 80 euro possa manifestarsi con più forza nel corso del prossimo anno. Quando inizierà il segno più, si arriverà comunque ai livelli pre-crisi oppure no? Purtroppo no, siamo oggi intorno al più del 10% sotto i livelli dei consumi pro capite che avevamo nel 2006, nel 2007, quindi prima che iniziasse questa lunghissima crisi. Il ritmo di recupero è molto molto lento, credo ci vorranno non meno di 10 anni per tornare a quei valori. Voi siete andati a guardare come sono cambiate le abitudini d'acquisto, dove hanno tagliato di più gli italiani? Paradossalmente hanno tagliato anche negli acquisti primari, quindi nel pane e pasta molto di più per quanto riguarda carne e pesce e all'interno di questi settori i prodotti di qualità più bassa perché sono più economici. Quindi sono tutti segnali allarmanti ed è molto difficile parlare di consumi in aggregato, bisognerebbe vedere quale tipo di consumo sta tenendo di più all'interno delle varie categorie merceologiche. Per concludere sul sentiment generale, che cosa possiamo dire? Il sentiment è ancora molto molto critico, non c'è pienamente la percezione da parte delle famiglie che si possa andare verso un 2015 migliore del 2014, c'è qualche segnale positivo, per esempio il fatto che l'euro sia più debole significa che costeranno di più i beni stranieri a parità di qualità con quelli italiani, questo è un dato positivo, sarà un dato positivo anche per la capacità delle nostre imprese di esportare, quindi qualche schiarita c'è, non possiamo però ancora dire che è tempo bello stabile. Così appunto il capo economista di Intesa San Paolo. Non sparate sul capo economista, vedo molti messaggi critici, ma ho capito, insomma, De Felice racconta il movimento congiunturale, ha chiarito molto bene che siamo sotto di più di un 10% sui consumi, che difficilmente torneremo ai consumi pre-crisi, che è una schiarita, ma è presto per dire che arriverà il tempo sereno. Cosa doveva fare ancora? Chi dice che noi neghiamo la crisi, ma non so, addirittura Barisoni, lei come Berlusconi nega la crisi e dà dei gufi alla ragazza. No, noi il gufo lo diamo onestamente quando sentiamo delle proiezioni che lasciano e aumentano l'incertezza, fanno solo venire voglia di gesti scaramantici ma non spiegano altro. Allora vuol dire l'Europa ha il 35-40% di possibilità scendere in crisi, di andare in recessione. È come se un medico dovesse dire a un paziente: lei ha il 35-40% di possibilità di morire, ma non mi dici se c'è qualche medicina o no. Mi dice: guardi, lei ha queste possibilità, grazie, arrivederci. Bello, no? Allora uno fa gesti scaramantici del medico e in radio il nostro gesto si chiama gufo, molto semplice. La borsa meno 1,25%, Milano meno 0,60%, Parigi più 0,25%, Francoforte meno 0,70%, Londra meno 0,70%, l'America molto male oggi in Mediaset, parleremo più avanti anche degli investimenti pubblicitari. Meno 5%, Ubibanca, non di media, siete in generale, il dato è molto brutto oggi quello della Nielsen, purtroppo lo dico perché anche noi viviamo di investimenti pubblicitari. Ubibanca meno 4,50%, Yux meno 3,70% come Autogrill, meno 3,5% Finmeccanica come la Pop Milano e Moncler, meno 2,90% Ferragamo come World Duty Free e Intesa San Paolo, meno 2,80%, anzi meno 2,70% Prismian come Azimut e Mediolanum. Bene Campari più 1,30%, Tenaris più 0,60% come Luxottica, Terna più 0,16%. Allora, adesso dobbiamo spostarci a Terni, e dico dobbiamo perché non avrei voluto fare questo tema oggi, ma dobbiamo raccontare la giornata. Purtroppo, come ricordavo, c'è stata un'accelerazione in negativo della vicenda che contrappone l'azienda che gestisce appunto gli acciaierie di Terni e i sindacati, e quindi la ST ha annunciato ufficialmente ai sindacati l'avvio della mobilità per 550 addetti. Il gruppo, tra l'altro, adesso racconteremo anche la storia, perché l'acciaio speciale Terni è uno dei principali produttori al mondo di laminati piani di acciaio inossidabile e ha un giro d'affari di 2 miliardi e 300 milioni di euro. Tra l'altro nel 2001 è passata sotto controllo della Thyssen Group, poi viene incorporata nella divisione Stainless Global, nel 2012 viene acquistata dalla finlandese Outokumpu, ma la Commissione Europea chiede che per evitare posizioni dominanti venga ceduta a ST. E infatti i finlandesi si accordano con la Thyssen per la vendita di AST. Ora, siccome l'Italia ha ancora il secondo posto in Europa nella produzione siderurgica, ripeto, l'AST è un bellissimo stabilimento, io vorrei capire da Paolo Bricco perché non si riesce a trovare un accordo tra l'azienda e i sindacati e 550 persone vengono messe in mobilità. Paolo Bricco, buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti i radioascoltatori. La ragione è... come dicevo, la ragione è puramente industriale. I tedeschi non volevano lo stabilimento di Terni, sono stati appunto, come dicevi giustamente tu, costretti a ripigliarselo dopo che l'avevano venduto ai finlandesi di Outokumpu, perché avevano scelto legittimamente i tedeschi ThyssenKrupp di uscire dall'acciaio inox. E adesso si ritrovano nella necessità di riportare lo stabilimento a profittabilità, che è un termine orrendo, ma che vuol dire che il fatturato è molto alto, come giustamente dici tu, ma lo stabilimento, il plant, perde, e quindi hanno deciso di fare scendere il personale più o meno di un quarto. Non lo vogliono chiudere, ma lo vogliono sistemare, probabilmente reimpacchettare, riportare a un equilibrio finanziario di finanza d'impresa per cederlo a questo punto definitivamente a qualcuno che invece fa acciaio inox. E quindi questa è una trasmissione che notoriamente non indulge a populismi anti-europeisti, ma in questo caso davvero c'è da chiedersi che significato ha un antitrust, un sistema regolatorio europeo che edificato negli anni 60 e 70 quando l'Europa era la grande roccaforte della siderurgia mondiale, obbliga imprese europee a fare queste cose mentre i cinesi e gli indiani come dire, in qualche maniera invadono ormai la manifattura internazionale. Sì, qui stiamo veramente lucidando i pomelli del Titanic, nel senso che ci permettiamo dei lussi. Esattamente. Allora tu obblighi i finlandesi a non tenersi dentro l'acciaio speciali terni e quindi dire alla Thyssen che deve perché vendere. Perché in teoria sul mercato continentale i finlandesi avrebbero una posizione di eccessiva predominanza. Sì, però voglio dire, quando tu ti confronti con giganti come ArcelorMittal, di che cosa stiamo parlando? Sarai anche un gigante in Europa, ma sei un nano su base mondiale. E ormai l'Europa è diventata davvero poca cosa sulla manifattura internazionale. Ne sanno qualcosa i francesi, visto che si sono beccati un'OPA gigantesca proprio sul gruppo ArcelorMittal da parte di Mittal, che è un indiano, è penso l'uomo più ricco, forse con Tata, adesso vado a memoria, Tata e Mittal sono i due uomini più ricchi dell'India. Però voglio dire, nel momento in cui fuori ti comprano, creano i colossi numeri 1, 2, 3 al mondo, noi siamo lì a chiedere ai finlandesi di cedere la ST Terni perché sennò avresti una posizione dominante in Europa. Voglio dire, ma ci rendiamo conto, è vero, questa trasmissione non è mai populista sull'usciamo dall'Europa, l'euro, certo, e stemmenate qui, però neanche così abbiamo le fette di prosciutto sugli occhi. È una follia regolare con i criteri degli anni 60 e 70 il mondo dell'acciaio, che è uno dei mondi più globalizzati. Paolo Bricco, però, come se ne esce? Perché oggi il ministro Guidi ha detto, insomma, il piano, aziende e sindacati sono stati troppo rigidi nella contrattazione aziendale, il piano è profondamente cambiato con 100 milioni di investimenti in 4 anni. Da questa cosa se ne esce probabilmente cercando di riportare i tedeschi al tavolo della trattativa, e so che il governo sta cercando di fare di tutto con i suoi sherpa in queste ore per ricondurli a più miti consigli, cercando di anche convincere i sindacati a cedere rispetto a posizioni sui contratti integrativi che in qualche maniera sono stati anche utilizzati dalla controparte tedesca per accelerare e per fare sì che a un certo punto si arrivasse a un punto di cottura e di esplosione della situazione. In ogni caso è una situazione molto molto complicata e in questa maniera il problema non è tanto politico, il problema o sindacale, il problema è anche di confronto a questo punto con l'Europa. Io credo che il governo dovrebbe in qualche maniera porre la questione in sede europea per parlare di temi regolatori. Vada a Bruxelles a dire, allora dobbiamo svendere le acciaierie Terni, perché qualcuno mi scrive se ne esce con Rio Tinto. Per chi non lo sapesse, Rio Tinto è un altro dei colossi mondiali dell'acciaio. Sì, ho capito, però allora decidiamo che anche l'acciaio lo diamo o agli indiani o ai grandi colossi australiani piuttosto che brasiliani, e va bene così. Però tutto questo non perché le acciaierie Terni, ripeto, non facciano un buon prodotto, visto che sono tra i principali produttori al mondo di laminati piani di acciaio inossidabile, 2 miliardi e 3 di giro d'affari. E hanno anche un contenuto innovativo e dei laboratori di ricerca e sviluppo che davvero sono fra i più avanzati in Europa. Mi fa diventare una bestia. E viene considerato dagli operatori del settore, veniva definito fino a poco tempo fa e tuttora viene definito come un gioiellino. Sì, è questo che mi fa, perché tu quando perdi poi le acciaierie speciali Terni non è che perdi solo i 2 miliardi e 3, che già è tanta roba di fatturato, e lasci a casa 550 persone in questo momento in una regione come l'Umbria. Perdi anche tutta la ricerca e il know-how. Poi hai voglia fra 10 anni dire ok, siamo pronti a ripartire, ti giri e il panorama industriale di questo paese è, diciamo, post bellico. Allora, prima di arrivare a questi, tra l'altro, ripeto, non per una cattiva gestione, per uno scandalo, per un errore anche di progettualità e strategia, solo perché c'è questo antitrust europeo che dice, sulla base di un'impostazione negli anni 60-70, che i finlandesi erano leggermente in posizione dominante, quando fuori i veri padroni se la stanno costruendo a botte di miliardi le posizioni dominanti. Non so se è abbastanza chiaro, ma... Prego, Paolo. Sebastiano, appunto, hai ragione a scaldarti. Il tema è proprio questo, perché quando si esce dall'industria di base ad alto contenuto di ricerca e innovazione, sì, non si ritorna più. Ma siamo già riusciti a chiudere l'alto forno Riva, che paghino quello che devono pagare, ma abbiamo detto mille volte, fate pagare Riva, non bloccate la produzione dell'Ilva di Taranto, perché è un'altra cosa, mettetela in sicurezza. No, niente, perché adesso i magistrati giustamente capiscono tutto, anche le strategie industriali, e hanno chiuso l'alto forno a Taranto, va bene, perfetto, quello diciamo è roba nostra, o meglio, crimini e reati di cui sono accusati i proprietari, ex proprietari dell'Ilva di Taranto, la famiglia Riva. Però in questo caso, per favore, Ministro Guidi, noi la cercheremo nei prossimi giorni, però vada a Bruxelles e spieghi che questa cosa dell'antitrust europeo sull'acciaio è una cavolata di dimensioni, tipo la corazzata Botionski di Fantozzi, per capirci sul proprio la definizione. Oggi concludiamo, Paolo Bricco, gli operai hanno scioperato e hanno bloccato i binari della stazione. Quanto potranno andare avanti? Che ipotesi tu vedi di quantomeno di una riapertura del tavolo? Beh, è un'ipotesi ancora abbastanza flebile, perché appunto ricordiamo che questo tavolo è già stato rianimato una volta, perché già a fine luglio, inizio agosto, i tedeschi avevano detto: allora, la ristrutturazione è questo e questa, 550 persone a casa, probabilmente anche la chiusura di un forno a Terni, e poi è già una volta in qualche maniera il governo è riuscito a rianimarlo. La possibilità è flebile, davvero. Io credo che a questo punto occorra un salto di qualità dell'azione politica del governo e dei suoi sherpa presso Bruxelles. Sì, facciamo lavorare gli sherpa, facciamo lavorare tutti, ma soprattutto arriviamo a una deroga, si può chiedere una deroga, una ridefinizione dell'acciaio, va bene, tanto l'acciaio in Europa lo fanno la Germania e l'Italia. Io vorrei vedere se fosse capitata la stessa cosa a un'impresa tedesca, lo dico senza nessuna polemica con i tedeschi, perché avrebbero ragione i tedeschi in quel caso, a un'impresa tedesca che per un antitrust del genere vede 550 dipendenti a casa, operai a casa, e soprattutto perdere un settore di eccellenza, in un settore che va fortissimo, per cui non è un settore in declino, con la ricerca e le eccellenze che ci sono dietro questa produzione, perché ripeto, c'è anche il know-how. Ministro Guidi, vediamo se ci ascolterà. Grazie intanto a Paolo Bricco. Grazie a te e grazie a tutti i radioascoltatori. Per me la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca! Oh, così l'ascoltatore è contento. Chiedo venia se ho fatto un refuso, chiaramente Potemkin, ogni tanto incespico anch'io. Il riferimento era la legge antitrust europea sull'acciaio, che appunto va a lucidare i pomelli del Titanic, potremmo dire i pomelli della Potemkin, e invece di occuparsi di quello che sta capitando a livello mondiale. E quindi poi noi abbiamo un prodotto di eccellenza fatto da un gruppo di eccellenza, da una fabbrica di eccellenza, che rischia di chiudere. La borsa, dicevamo, oggi giornata debole, soprattutto a Milano e in Italia, meno 1,34%, meno 0,60% a Parigi, Francoforte invece più 0,11%, Londra meno 0,70%, l'America meno 1% in questo momento, euro di nuovo un po' in recupero, si avvicina anche a quota 1,27, adesso 1,26,92. I dati sulla pubblicità, che hanno influito anche su un titolo come Mediaset, e comunque valgono per tantissimi gruppi anche quotati e non, anche per il gruppo Sole 24 Ore, non sono dati buoni. Lo dico subito, il rapporto Nielsen fotografa un mese di agosto con la pubblicità in calo complessivamente dell'11,3% e nei primi 8 mesi dell'anno del 2,7%. La tendenza è confermata anche per settembre. L'unico media in controtendenza è internet, nel senso che la radio ha perso investimenti, purtroppo, visto che appunto noi viviamo di pubblicità e solo di pubblicità, meno 3,9% nei primi mesi e meno nei primi 8 mesi e meno 2,6% per la radio nel suo complesso, non Radio 24, a luglio. Internet conferma l'inversione di tendenza, chiude il mese di agosto a più 6,8 e da inizio anno, cioè nei primi 8 mesi, ha fatto più 1%. La TV fa più 0,9 nel periodo gennaio-agosto, ma ad agosto ha fatto meno 18%. La stampa ha confermato purtroppo il peggioramento di luglio, calando del 10% nei primi 8 mesi come raccolta pubblicitaria e del 7,7% ad agosto. Ecco perché immagino Mediaset, tra le altre cose, perde il 5,30%. Dottor Roberto Brasca, vicepresidente di Acomea, buonasera, SGR, buonasera. Buonasera. Ogni tanto noi, sapete, prendiamo gli operatori dei mercati per fare il commento di borsa. Mediaset, meno 5,30%, è dovuto ai dati Nielsen? Ma penso che ci sia senz'altro una componente di questo, ma anche una componente di mercato. Direi che oggi c'è stata una vendita diffusa sui titoli indice del mercato italiano. Francamente io non ne vedo un motivo particolare, ma forse potrebbe essere legato al fatto che resta un mercato periferico ancora con tanta difficoltà a ritrovare il percorso della crescita, una difficoltà soprattutto fiscale, o anche il fatto che alla fine è uno dei pochi mercati europei che è ancora in territorio positivo dall'inizio dell'anno. Siamo in ottobre, può darsi che qualche gestore stia facendo i conti. Sì, infatti l'Europa era un po' salita con dati Fed, però poi a metà giornata ha girato in negativo. Tra l'altro le vendite hanno riguardato non solo Mediaset ma anche UbiBanca meno 4,30, Iux meno 3,80, Finmeccanica meno 3,60, Moncler meno 3,60, Pop Milano meno 3,40, Wood UTF meno 3,1, Intesa meno 2,90, come Ferragamo e Mediolanum, il 2,70 Prismian, il 2,30 il calo di Mediobanca, Azimut e Telecom Italia, il 2,20 quello di Fiat. Chiudo con chi perde il 2%, sia Unicredit e Unipolsai. Senta Brasca, ma anche la frenata tedesca, non tanto sui singoli titoli ma come sentimento generale, può aver influito? Senz'altro, purtroppo noi abbiamo il paese che dovrebbe fare da cosiddetta locomotiva. Noi tante volte abbiamo parlato degli Stati Uniti come locomotiva dell'economia mondiale. In Europa noi abbiamo un paese che è più ha dei voti in pagella migliori dei nostri, che è la Germania, che dovrebbe fare un po' da capoclasse e cercare di portarsi dietro gli altri. In realtà questo è un capoclasse che non fa copiare o comunque non aiuta gli studenti meno bravi. Ecco, non fa copiare, continua, magari è sbagliato, però aiutare. Ecco, no, ma voglio dire, non dà ripetizioni, non aiuta. Non dà ripetizioni, ho sbagliato la frase. No, perché sennò sembriamo veramente italiani, Se ci sento tedesco, ecco che volete copiare. No, ma voglio dire, nel senso che non aiuta i suoi compagni. Che cosa vuol dire questo? Che finché lo Stato, che dovrebbe fare da locomotiva, è in avanzo sulla bilancia dei pagamenti, non può farlo perché non riesce a tirare dietro tutti gli altri. Adesso ho le informazioni sul traffico, poi torniamo su questo anche perché ne parleremo più avanti con Giulio Sapelli. In realtà oggi la Merkel ha aperto, ha detto adesso cerchiamo di capire come fare più investimenti. Insomma, il discorso è chiaro: se c'è una famiglia in cui alcuni figli devono fare risparmi perché hanno mal utilizzato i soldi, si sono riempiti di debiti e sono anche poco efficienti, vedi Francia e Italia. Se però c'è qualcun altro che invece è stato bravo, virtuoso, i soldi li ha, se tiene il braccino corto anche lui, se fa T-Rex, come dicono i giovani adesso, non va bene perché quella famiglia non mangia. Allora si chiede alla Germania non di prestare i soldi, di sprecare i soldi, ma di fare gli acquisti, di non essere, diciamo così, avara, così parca, così sempre sul limite del deficit, visto che lei è uno dei pochi paesi che può fare questi investimenti. 17:50 minuti. Allora, dicevamo del clima generale, di quelle che sono state notizie anche specifiche. Bene, oggi si è mosso Campari più 1%, Luxottica più 0,70%, Tenaris mezzo punto percentuale. In assoluto i migliori e peggiori sono Hi-Real più 6%, ACSM più 5,80%, Zucchi più 3,1%, contento Buffon, CIA, e non solo per questo, più 3,80%, EMAC meno 8%, IMSI meno 7,2%, Alcatel-Lucent meno 7%. Mi riferivo alla partita con la Roma, chiaramente. Allora, dottor Brasca, da questo punto di vista, cioè, mi scrive un ascoltatore che è sempre molto attento al programma, lo ringrazio, dice: no, io prevedo che vi sarà da qua a Natale un periodo di correzioni verso il basso, un mini panico e, anzi, scusate, mini panico e poi via al rally di Natale. Oh, boh, non lo so, via al rally di Natale, però lei la vede così? Cioè, ci potrebbero essere delle correzioni da qua fino a inizio dicembre verso il basso? Noi fondiamo il nostro metodo di gestione su un assunto principale, cioè di non fare previsioni, cioè prevedere il futuro è impossibile. È chiaro che non si può, oggi il mercato è già sceso molto, siamo in presenza di una correzione che ha accelerato negli ultimi 2-3 giorni perché è sceso il mercato americano, ma comunque era già in tendenza negativa il mercato italiano. Dire che ci sarà una vendita da panico, chi può dirlo, e che poi ci sarà rally, non lo sappiamo. Io credo che l'atteggiamento giusto è quello di valutare le notizie con calma, fare degli investimenti che riguardino un periodo di tempo abbastanza lungo, tale da superare queste fasi, sia le fasi di panico sia le fasi di euforia. Cioè, se oggi io ho un titolo che poi domani mi scende nei prossimi 2 mesi del 10%, ma se io sono convinto che ci sia valore, non ha nessun tipo di rilevanza il fatto di perdere il 10% sui prossimi 2 mesi, perché io non ho una perdita finché non vendo. E quindi io devo avere un'idea. Ma mi dica solo una cosa: il mercato vede stabile, in calo o in crescita da qua a Natale, diciamo? Ma non lo può sapere nessuno. Questo è una cosa cioè è come prevedere il futuro, chi può dirlo? Noi siamo ancora investiti sul mercato italiano perché noi riteniamo che ci sia una riserva di valore. Oggi il mercato è in una fase di scetticismo, ma noi vediamo che la Banca Centrale Europea sta facendo quello nei limiti del possibile può fare per aiutare la ripresa economica, e dal punto di vista delle riforme vediamo dei piccoli tentativi di fare. No, vabbè, questo ci figuri. Manca la parte fiscale. Sì, questo lo vediamo. La parte fiscale. Lo vediamo anche noi, cerchiamo di raccontarlo ogni giorno. Io la ringrazio, grazie al vicepresidente di Acomea, Roberto Brasca. Allora, c'è chi mi chiede: ma cosa vuol dire T-Rex, come dicono i giovani? Dai, braccino corto, il T-Rex è un dinosauro, cioè braccio corto, è il modo in cui i giovani adesso dicono uno col braccio corto, il riferimento era alla Germania, tirchio, avaro. Allora, dal T-Rex ai Global Brands 100, che poi vuol dire i primi 100 marchi al mondo per valore intrinseco del marchio. Ogni anno esce questa classifica, non sono i primi 100 gruppi al mondo come fatturato, ma i 100 marchi che da soli valgono di più, proprio il marchio in sé. Il numero 1 Apple, il numero 2 Google, il numero 3 Coca-Cola, e il mio commento è: dov'è la notizia? Manfredi Ricca, manager director della sede italiana di Interbrand, che sviluppa ogni anno questa classifica. Buonasera. Buonasera. Mi dia una notizia, Ricca, perché sennò qua, che uno sia Apple, 2 Google, 3 Coca-Cola, c'è qualcuno che esce? Direi che c'è una notizia nella notizia, ben guardare, cioè che ci sono quattro brand che da soli quest'anno hanno un incremento cumulato in quattro di 200 miliardi di dollari, e sono quattro brand sui generis, che sono Apple, Google, Amazon e Facebook. Cioè tutto il mondo del web, dell'information technology. Allora facciamo una cosa, resti con noi perché adesso al GR24... Mi sembra che il primo marchio italiano sia Gucci, 41esimo, peccato che le sono comprati i francesi, e il vero italiano come proprietà è il 70esimo, ossia Prada. Non capisco dove è Ferrari. Dopo il GR24 ci racconta anche come si sono mossi i marchi italiani, poi arriverà l'uccellaccio Sapelli a spiegarci il futuro della Europa e della Germania, ossia della stessa cosa. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Manfredi Ricca, che è appunto il direttore della sede italiana di Interbrand, stavamo commentando la classifica annuale dei 100 marchi a maggior valore aggiunto, mi diceva che i primi 4 da soli, quindi sono Apple, Google e poi quelli che hanno avuto maggior incremento del valore aggiunto. Sono quattro brand che insieme hanno messo insieme un incremento di qualcosa come 200 miliardi di dollari da un anno all'altro, sono i cosiddetti GAFA, acronimizzati, cioè Google, Apple, Amazon e Facebook. Facebook in particolare mi mancavano i GAFA, noi avevamo il gufo, però il GAFA è già un passo avanti, no? Uh-huh. E Facebook in particolare è salito dell'86% in termini di valore economico. Questo ci fa capire come questi brand, che in comune hanno il fatto di essere quattro ecosistemi che si stanno espandendo verso orizzonti che sono ovviamente abbastanza difficili da capire in termini di servizio, in termini di competenze, in termini di ampiezza dell'esperienza che stanno dando, mostrano come siamo di fronte a dei modelli di business che non hanno effettivamente precedenti e che creano un valore assolutamente sproporzionato. E infatti Facebook ha una crescita dell'86% sul suo valore di marchio, e a 14,3 miliardi di dollari. Si segnala anche l'ingresso del cinese Huawei, no? Che produce e distribuisce telefoni cellulari a livello globale, 4,3 miliardi di dollari. Nokia scende al 98esimo posto, Nokia è il grande sconfitto nella battaglia, ma questo ne abbiamo parlato altre volte, nella battaglia degli smartphone, e scende dal 57esimo al 98esimo posto. Veniamo e chiudiamo sugli italiani, un po' deludente la classifica sugli italiani, dicevo 41esimo Gucci, che però è del gruppo francese Kering. Italiano come proprietà è Prada il primo, se ho ben visto, al 70esimo posto. Sì, è così. In effetti, considerando la dimensione della nostra economia a livello mondiale, l'Italia è sottorappresentata. Abbiamo questi due brand. Gucci è un'azienda italiana di proprietà francese, ma è un'azienda italiana, e questo comunque va riconosciuto. Quest'anno non abbiamo Ferrari in classifica. Questa è una classifica per valore economico e quindi incide in parte anche quella che è la magnitudo finanziaria di un brand, il fatturato e la redditività in termini assoluti che in effetti quel brand riesce a produrre. Ferrari per ogni standard è un'azienda relativamente più piccola, di diversi ordini di grandezza rispetto ad altre che compaiono in questa classifica. I motivi per cui non siamo presenti come dovremmo essere in questa classifica, e quindi onore a chi c'è dei due italiani, ci sono diversi motivi. Il primo è che abbiamo perso decenni fa la sfida della tecnologia e oggi appunto si crea valore economico e si crea ruolo del brand attraverso la tecnologia, sia perché si creano dei brand tecnologici, sia perché si facilitano altri brand, e abbiamo delle aziende che sono di dimensioni relativamente ridotte perché abbiamo uno scarso ricorso al mercato dei capitali, perché abbiamo ancora un passaggio fra famiglia e management non sempre completamente risolto, e ovviamente anche in termini di competitività per quanto riguarda il nostro sistema probabilmente c'è qualcosa che non funziona completamente. Quindi quello che ci manca è una scala e una dimensione che molto spesso fa sì che abbiamo delle eccellenze ma non riusciamo a tradurre queste eccellenze in crescita. E i primi europei in assoluto nella classifica sono due tedeschi, Mercedes-Benz e BMW, al decimo, rispettivamente al decimo e all'undicesimo posto. Grazie Manfredi Ricca, noi parliamo adesso di Germania, o meglio di quelle delle notizie economiche che sono arrivate anche oggi dalla Germania, le dichiarazioni di Angela Merkel, alla luce del vertice di ieri. Voglio dire subito una cosa. È un vertice che era nato male, perché il vertice sul lavoro prima era stato annullato, poi rimesso, poi riannullato, poi rimesso. Molti immaginavano che fosse semplicemente una vetrina. In realtà a me sembra di poter dire che forse qualcosa si muove, non perché siano arrivate notizie incredibili, però forse il primo vertice non all'insegna dell'austerità rispetto ai vertici che abbiamo visto in questi anni. Ovviamente in entrambi i paesi, il ministro francese e il presidente del Consiglio Renzi hanno annunciato l'importanza di avere delle riforme approfondite. Abbiamo un patto di stabilità, abbiamo deciso e preso decisioni noi come Consiglio per appunto rispettare questo patto di stabilità e di crescita, e anche qui c'è degli elementi di flessibilità previsti da questo patto. Quindi mi pare che la Francia ha appena detto che intende rispettare i propri impegni. Io da parte mia non ho avuto segnali per pensare che la Francia non la pensa allo stesso modo. Insomma, abbiamo preso delle decisioni in questo senso poco tempo fa, quindi io sono fiduciosa circa il fatto che tutti rispetteranno le proprie responsabilità. E soprattutto vorrei ripetere ancora una volta che la Germania, per esempio, sta prendendo tutta una serie di misure per rafforzare la domanda interna. Per esempio introdurremo un salario minimo a breve, insomma sono 9 miliardi di euro in più che verranno a creare insomma dei salari migliori anche per la custodia dei bambini. Insomma sono 15 miliardi in tutto che verranno stanziati per favorire la domanda interna, e credo che questo sarà sicuramente utile anche per i nostri vicini europei. Io ho le mie idee sul 3% e le mantengo tutte. Ritengo infatti che questo parametro sia un parametro pensato, immaginato e ideato più di 20 anni fa, in un altro mondo. Adesso faccio il Presidente del Consiglio, il primo ministro di un paese che ha un problema di reputation, di credibilità, e per questo credo giusto per l'Italia mantenere e rispettare il vincolo del 3%. Io confermo tutte le mie idee sul 3%, se ci sarà modo di parlarne ne parleremo, ma considerati i tempi credo che non ne parleremo nei prossimi 15 giorni, per cui nella legge di stabilità che il governo italiano presenterà il 15 ottobre metteremo il limite al 2,9%. Importantissimo il passaggio, il doppiatore era chiaramente maschile, il traduttore scusatemi, di Angela Merkel ieri, quando dice stiamo valutando l'introduzione del salario minimo 9 miliardi e altri investimenti per la scuola e 15 miliardi. Importante perché, in assenza di altre notizie, oggi Angela Merkel è tornata, commentando i dati diffusi dall'IFO, dall'indice di statistica tedesco, che hanno visto una revisione al ribasso del PIL tedesco 2014 non oltre l'1,2, prima si stimava l'1,8, e 2015 non oltre l'1,3, si stimava un 2,1, quindi una bella revisione al ribasso. Angela Merkel è tornata e ha detto sì, dobbiamo fare più investimenti, cercheremo, ci prepariamo a capire come fare più investimenti. Allora, dopo il traffico, il commento, perché io a memoria personale non ricordo una cancelliera tedesca così netta nel dire va bene, dobbiamo aumentare i salari minimi e fare più investimenti. Quello che le si chiede sostanzialmente, la Germania aumenti i consumi interni riequilibrando lo squilibrio dell'area euro, dove i paesi devono tagliare quelli non virtuosi, ma i paesi virtuosi devono spendere e consumare e investire un po' di più. Non è un errore, al nostro uccellaccio che aleggia, diciamo, sulla Mitteleuropa, perché qua parliamo di Mitteleuropa. Giulio Sapelli, storico dell'economia, buonasera. Buonasera, caro. La Mitteleuropa è un po' più dislocata rispetto alla Germania, ma so che la geografia non è il suo forte. No, ma non solo la geografia, neanche l'economia, non si preoccupi, Sapelli, no, però mi dica. Sono sottigliezze. No, per carità. Senta, Sapelli, però ve la sento molto allegro oggi, ma mi dica una cosa, sono solo io che ormai nella disperazione dei numeri, delle cifre che stiamo raccontando da anni, vedo dell'ottimismo o sono ottimista per queste parole di Angela Merkel? No. Oppure veramente il vertice di ieri, al di là dei contenuti sul Jobs Act, sul lavoro, dal punto di vista politico è stato il primo vertice non sotto l'insegna della Deutschland, Uber Alles, e questo è giusto, va bene così, e no, così almeno mi tiro un po' su di morale, e soprattutto all'insegna dell'austerità, mi dica. No, ho sentito dall'alto, dal mondo extraterrestre le sue parole prima, no, per questo vertice informale è stato dileggiato un po', devo dire, con ingenerosità, perché non si può essere incontentabili. Ha ragione lei, è la prima volta che un consesso europeo con i primi ministri, non gli Sherpa, si riunisce ponendo al centro il problema della crescita contro la disoccupazione. E naturalmente bisogna capire che ognuno affronterà, leggerà questo tema sulla base della sua cultura nazionale e sulla base delle diverse scuole di politica economica che si confrontano, finalmente oggi hanno ripreso a confrontarsi dopo circa 15 anni di gelata, come ha detto giustamente lei, di austerità neoliberista selvaggia. Il fatto, questo che cos'è che determina? Come sempre i fatti sono più forti delle ideologie, anche dell'ideologia ordoliberista teutonica. La Germania non cresce più, anzi si avvia verso la decrescita, e naturalmente è preoccupata la cancelliera e soprattutto i suoi think tank, e ce ne sono di alcuni serissimi, perché sappiamo tutti che la Germania esporta il 57% del proprio PIL in Europa, quindi se sì, l'Europa si va in Russia esporta solo il 6% ad esempio, capito? Quindi e in Cina siamo su cifre un po' più alte, ma ecco, quindi il core dell'esportazione è l'Europa. Finalmente i tedeschi l'hanno capito quando la crisi della deflazione è arrivata a casa loro, ecco. Era la domanda che avevo per lei, perché forse più che tanti ragionamenti, vertici, pressioni politiche, la forza dei numeri in questo caso, ordinativi industriali in brusco calo 3 giorni fa, produzione industriale in brusco calo 2 giorni fa, parlo di quella tedesca, e oggi la revisione del PIL fanno capire alla Germania quanto modestamente annunciavamo o ripetevamo da mesi se non anni, attenzione che se frena l'Europa frena anche la Germania. Mi dico una cosa, però da questo punto di vista alcuni ascoltatori dicono: ma sì, ho capito, la Germania può anche fare più investimenti, aumentare il salario minimo, aumentare un po' i consumi, fare investimenti di Stato e privati, però poi chi ci garantisce che di questi investimenti beneficerà l'area euro? Potrebbero essere prodotti cinesi, potrebbero essere acquisti di materiale indiano o brasiliano. Insomma, adesso devo dire che la fantasia degli ascoltatori comuni, di cui ho enorme rispetto, è quasi superiore a quella degli economisti che ne inventano di cotte e di crude, soprattutto di false. No, cosa voglio dire? Ma il problema, mi pare che sia chiaro, è la Merkel e alcuni think tank, addirittura lo stesso Schaube, e c'era una lunga intervista su Frankfurt Allgemeine qualche giorno fa, hanno parlato chiaro: sono investimenti diretti non a spinoffare imprese, cioè a portare a rete, ma a creare una ripresa, perché naturalmente hanno buon senso, temono che, come dice lei, la caduta degli ordinativi industriali cominci a creare anche disoccupazione. Loro hanno una disoccupazione attorno al 6-7%, sì, che è mascherata, perché sì, è bassissima, però sono molto furbi, perché dentro i dati dell'occupazione mettono anche i mini job, no? Quindi un paio di milioni di occupati, quindi se lo facessimo anche noi sicuramente i nostri dati scenderebbero verticalmente, quindi un po' truccano i numeri. Però ciò nonostante sono un paese che ha una occupazione incomparabilmente, soprattutto hanno un tasso di popolazione attiva, capisce? Questo è il problema vero, il problema nostro e dei paesi sud-europei è di aumentare il numero delle persone che lavorano tra i 18 e i 64-65 anni, questo è il problema vero, e l'Italia ha i più bassi numeri di popolazione attiva in Europa. Quindi però quindi sicuramente loro hanno anche di mira questo, perché cominciano a capire che il miracolo tedesco è finito e le riforme Schröder hanno solo ritardato l'ora della verità che è arrivata per tutti. Ecco, da questo punto di vista noi possiamo anche immaginare che adesso la Germania, con non come diceva Renzi, non in 15 giorni, ma insomma nei prossimi mesi parta con un piano di investimenti di cui, ripeto, ha bisogno la stessa Germania, certo, sul fronte infrastrutturale, non è che stiamo parlando della prego. Scusi, se posso permettermi, chi va in Germania non va solo nella Foresta Nera, tira un po' per le strade in macchina dove io faccio ogni tanto quando scendo sulla terra, le strade tedesche sono piene di buchi. I cittadini si lamentano, i ponti barcollano e devo dire è anche stato colpito da una serie, come gli ascoltatori sanno, di inondazioni terribili a cui non si è ancora posto riparo dal punto di vista infrastrutturale. Quindi hanno da fare degli investimenti infrastrutturali diretti alla spesa pubblica nazionale profonda. Questo si riferiva alla disoccupazione. Loro stanno arrivando come era l'America di Reagan, dove le autostrade poi dopo sprofondavano. Vabbè, adesso quindi non tiriamo, lasciami toccare il gufo. Viaggi per la Germania, viaggi per la Germania. No, ma guardi Germania, Sapelli, che quello che lei sta dicendo, a parte le battute, lo raccontava in maniera ancora più dettagliata il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Scusa, Alessandro, Alessandro Meri, dicendo attenzione, non è che stiamo parlando di investimenti così, come un lusso o in eccesso, investimenti veri e propri. Mi dica un'ultima cosa però, immaginando che adesso questa cosa venga capita, oggi ho visto di nuovo dichiarazioni di Mario Draghi che dice siamo pronti a nuove misure se l'inflazione è bassa, misure non convenzionali, ma le misure non convenzionali che Draghi ha in mano, che cosa sono? Solo l'acquisto di debito? Dunque, innanzitutto non sono niente, perché Draghi dovrebbe dimettersi in primo luogo, perché non ha impedito la deflazione. Uno che ha come compito la stabilità monetaria ha fallito. Da annunci a borsa aperta provocando perturbazioni di mercato gravissimi, e finora queste sue misure non hanno servito a nulla per l'occupazione, hanno solo servito a salvare banche che non ha fatto nulla per rendere più efficienti. Devo dire che la Banca Centrale Europea ha speso 300 e passa milioni per consulenti per fare gli stress test con le migliaia di dipendenti già, quindi questo lo dice lunga sulla ma il suo amore verso Draghi è noto, è quasi simile all'amore che aveva verso Monti. Ci siamo del tu, ma però bisogna dire la verità. Meno male che del tu. Quindi se i suoi annunci un giorno o l'altro facesse dagli annunci si passasse ai fatti, io sarei lieto, ma finora devo dire per l'economia reale non ha fatto un bel niente, sia perché i tedeschi fanno il cane da guardia, sia perché probabilmente lui non ci crede più. Ma mi dico una cosa, lei ci crede invece all'ipotesi che l'ultima arma non convenzionale di Draghi sia l'acquisto di titoli di Stato, cioè di debito europeo? Questo sì, purché non si faccia quello che invece veramente hanno in mente di fare. Acquistare i famosi ABS, no? Cioè sì, quello l'ha già annunciato. I debiti collaterali, quindi come avremo brevissimamente alcuni trilioni di euro, cioè migliaia e migliaia di euro in debiti che non sappiamo se saranno mai estinti. Quindi sarebbe un pericolo. Ecco, se facesse questo, limiterebbe la parte negativa, non la parte bella della Fed. Sì, certamente, comprare i titoli pubblici è una cosa sacrosanta, perché inizierebbe una politica di condivisione del debito e non di lotta tra paesi debitori e paesi creditori. Questo mi sembra giusto. Però aspetto che lo faccia, è mesi che lo annuncia. Beh, un Sapelli in versione Schäuble oggi, perché anche il ministro delle finanze tedesco è molto scettico sull'acquisto di ABS, di Asset Backed Securities, cioè i crediti delle banche da parte della Banca Centrale Europea. Comunque mi interessava molto il primo punto di vista, cioè una volta tanto un vertice, lo ripeto perché noi siamo sempre molto critici, in cui dal punto di vista politico qualcosa è uscito. Voli via, anche perché la stavano suonando, volava troppo basso, Sapelli. Ma perché sono sceso un attimo sulla terra, rivoli così non becca neanche il traffico. Grazie a Giulio Sapelli, storico dell'economia. Da Sebastiano Berisoni veramente tutto, noi ci risentiamo domani per un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi, e sarà nostro ospite, non so se piace o no Sapelli, ma Thomas Piketty, l'autore del libro Il Capitale, il successo, diciamo, editoriale degli Stati Uniti. Buona serata intanto. Radio 24, la passione si sente.